campagna e penso a te per non morire. Anna, io sono un treno, un'onda del destino su rotaie dietro il baleno. Solo questo legno può parlare di cose vissute più o meno. Quante le emozioni tra le mani tue, tutta la mia vita senza nostalgie. Anna, solo tu lo puoi. Nuovi orizzonti, rossi tramonti negli occhi tuoi, di tanti pensieri di oggi e di ieri resti la più bella. Ho girato tutto il mondo e di ogni cielo sei la stella. Questa notte è una notte di luna e tu mi porterai fortuna. E penso a te lungo il viaggio, penso a te per non star male. Guardo fuori la campagna e penso a te per non morire. Anna, io sono un treno, sono un treno. Blu Radio Sera. Of you. Rock Wave, l'onda del rock. Ed eccoci qua dopo la voce di Shakira, diamo il benvenuto a tutti i nostri ascoltatori, siete su Blu Radio Veneto e questo è Rock Wave del mercoledì sera e come avrete capito bene inizia l'appuntamento live di Rock Wave, questa sera in compagnia di Flavio Bilato, Maurizio Calzavare che saluto dall'altra parte del vetro, che è già in buona compagnia, in compagnia dei nostri ospiti, quelli che ci terranno questo mini concertino. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, due ore di concerto verso la mezzanotte, una bella cavalcata, cosa dici Flavio? Con dei personaggi, dei giovanissimi personaggi, perché sono giovani questi ragazzi, sono delle nostre parti e hanno già fatto molte cose, hanno già sviluppato un progetto molto interessante. Buonasera agli Sismica. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao. Come è nato il progetto? Come è iniziata l'idea di portare avanti un progetto sonoro? Allora, intanto il progetto Sismica è nato nel 2003, è cominciato semplicemente ascoltando della musica in realtà, no? Ascoltando quindi un semplice disco, un disco live. Ci ho letto, Rossi. Fare musica è il vostro, la roba sì. Più importante. Dovete fare musica, cioè creare musica, sviluppare un discorso musicale. Un discorso musicale nasce appunto da una semplice emozione sonora. Questa passione è nata piano piano per poi trasformarsi in realtà non in più in una semplice passione, perché per noi non è una passione semplice, ma è dire che la musica è la nostra vita direi che è riduttivo, cioè sì. Voglio dire la musica è di gran più lunga importante della vita, è una cosa fondamentale, chiamiamola sì linfa vitale, allora. Sì, assolutamente. Di sicuro. Abbiamo già, vedi, la telecamera stanno inquadrando due belle chitarre, un bellissimo basso e una chitarra acustica, che suonate voi chiaramente, esatto, sviluppate sì. Un discorso musicale. È vostro, totalmente vostro, lo sviluppo è vostro, parte da un'idea. Ma come è stato difficile portare avanti questo progetto, questo inizio, questo percorso? Beh, allora sicuramente come tutti i progetti, come tutte le cose, ancora di più con la musica credo bisogna metterci determinazione, passione, pazienza e stare ore ogni giorno a provare, continuamente a provare. Ma sicuramente tutti i giorni, noi facciamo dalle 5 alle 8 ore al giorno comunque tra scrivere, prove, studio comunque musicale, perché è essenziale, fondamentale, però sono ore infine che non pesano, È vero. È un lavoro che non pesa per niente. E non dovete neanche mettervi d'accordo di trovarvi perché siete già là. Eh sì, siamo in casa, giusto? Sì, perché dimentichiamo, sì. Stiamo parlando con due fratelli, Andrea e Davide Sismica, arrivano da Padova e ci portano questa grande esperienza appunto. Esatto. Di Sismica, diciamo grande esperienza, anche se voi siete giovanissimi, però come scrivevamo nella nostra presentazione all'interno del sito, voi in ben 3 anni vi siete fatto un po' di 300 concerti circa. Esattamente, sì. Nel 2009 120 serate, adesso anche 120 serate. 120 serate in un anno, sì sì. Straordinario. Questa è la nostra media, diciamo. È un progetto comunque principalmente improntato sui live. Sì. Questa è la cosa fondamentale, perché comunque la musica dal vivo, perché ok i dischi va bene, il disco però è una conseguenza della musica dal vivo, perché quando comunque scrivi una canzone, sei nella tua stanza che scrivi un pezzo, comunque quando ti viene un'idea musicale, dopo tu la stai scrivendo per farla sentire a qualcuno, che sia una persona o che siano 10.000, voglio dire, non cambia niente. E la prima cosa che fai è aprire la finestra, farla ascoltare. Sì, tanto lo ascoltiamo noi due, confrontiamo le idee. Perché piace. Sì. E una cosa che vi volevo chiedere, come nasce un vostro disco, un vostro progetto, un vostro pezzo? Allora, come si sviluppa? Non c'è un'idea precisa, un modo preciso, perché può venire una melodia a me e poi la passo a lui e lui ci mette il testo, oppure il contrario, oppure proprio nasce insieme. Esempio, tante canzoni sono nate anche al mare, sì. Voglio dire, beh, chiaramente, sì. Con le chitarre e il basso sugli scogli guardando il mare, oppure possono nascere durante un concerto anche. Certo, anche quello è importante. Ma non c'è né momento né metodo, è quello il bello poi del... E qui poi quando finisci di fare una canzone lì dici questa è la felicità. Benissimo, poi hai detto una cosa molto interessante e giusta. Il fine è fare il live, suonare dal vivo, sì. Questa è una cosa importantissima secondo me per un gruppo emergente come il vostro, sì. Suonare dal vivo sarebbe la cosa più importante per tutte le band, suonare dal vivo secondo me. Assolutamente sì sì, la musica è emozione, quello che poi trasmetti, però non solo a livello sonoro ma anche a livello d'immagine poi, no? Certo, perché ti devono vedere, devono capire tutto di te. Cioè, che ti devi mettere proprio a nudo, Hai capito? Certo, certo. E poi lasciami dire, Maurizio, ho sentito un entusiasmo irrompere da queste due voci, sono Andrea e Davide, da queste due persone che secondo me faranno assolutamente strada. Già hanno fatto qualche chilometro musicalmente parlando e quindi hanno tutta l'intenzione di continuare. E visto che stavamo parlando di appuntamenti dal vivo, anche questo è un appuntamento assolutamente dal vivo, questo di Rock Wave, perché loro ci hanno promesso una scaletta che parla quasi tutto in diretta musicale, quindi con basso e chitarra, e poi naturalmente affinché loro possano prendere fiato ci sarà anche l'ascolto di un loro disco. Una cosa molto positiva, avere molto coraggio, quasi fate eseguite quasi tutti i pezzi live, è una cosa decisamente atipica di solito, live subito immediatamente, non è semplice, non è facile, secondo me, è una roba decisamente importante, un bel rischio, ma un rischio calcolato, un rischio che va al di sopra, secondo me. E visto che ci siamo, mi spiega un momento di questo percorso, come è nato, lo sviluppo un po' per tempo, per momenti, avete iniziato in una certa maniera e poi come siete andati avanti? Allora, appunto come dicevamo prima, è iniziato tutto con l'ascolto di un disco di Vasco Rossi, va bene così, un live del 1984, e da lì già prima ascoltava musica, però da quel disco c'è stato un fulmine, no? Che abbiamo detto, ok, la musica è importante, perché? E allora lì c'è stato un momento di pensiero, no? E quindi di percorso, abbiamo cominciato a dire dobbiamo studiare uno strumento. Abbiamo scelto la chitarra e tuo fratello il basso. Abbiamo comprato questo strumento e abbiamo detto ok, adesso bisogna studiarlo. Bisogna cominciare a studiare, certo. Abbiamo quindi preso delle lezioni, sia strumentali che vocali, che poi tuttora studiamo, perché bisogna sempre comunque capire, la cosa importante di far musica è quella di dover sempre imparare, di essere sempre coscienti che bisogna imparare, perché il giorno comunque che non è più di niente da imparare, che non arriva mai, secondo me, perché poi se arriva è un disastro, voglio dire, è il momento di cambiare mestiere. È un momento di cominciare cominciate a fare the best, esattamente. No. Benissimo, allora io direi questo, visto che vi abbiamo invitato giusto per suonare, non solo per colloquiare, anche se piacevolmente, direi che potete già alzarvi dalle nostre sedie. Ecco che Andrea e Davide si stanno posizionando davanti ai loro microfoni, chi vede anche all'interno del sito rockwave.altervista.org sta vedendo proprio le fasi di come si stanno preparando i nostri ospiti in questa serata di mercoledì 27 gennaio del 2010, sempre con Rock Wave qui su Blu Radio Veneto, assieme a Maurizio Calzavare e Flavio Bilato. Lasciamo spazio ai Sismica che iniziano la loro carrellata musicale presentando un pezzo che si intitola Giochi di sguardi. Allora, che dire, noi vi guardiamo e voi suonate. Grazie. Ma tu chi sei? Seduta lì? Ma dove vai? Di giovedì? Cosa cerchi? Cosa fai? Cosa vuoi? E con chi sei? Ti guardi intorno, tieni il mio tempo, poi il tuo sguardo su di me. Sono qui, qui per te. Qual è il tuo nome? Di dove sei? E cosa indossi sotto i blue jeans? Porti alla bocca il tuo bicchiere, tra le dita una sigaretta, bagni le labbra, poi ti giri, mandi un bacio. Hai turbato i miei pensieri, giochi di sguardi tra noi. E se non mi parli è perché mi vuoi. So che mi stai pensando, sai cosa sto pensando. Potrei provarci io con te, se tu ci stai però con me. E io ti spoglierò, se anche tu mi spoglierai. Voglio guardarti, voglio toccarti. Tu mi lasci senza fiato. Ora ti avvicini, vieni verso me, passo dopo passo, il mio cuore è a tempo, poi mi sorridi, sciogli i capelli, ora la tua mano sfiora la mia. Una frase sottovoce, una languida armonia, sai, mi sorprende la tua ironia. raccontami di te. Se ti piace viaggiare, io ad esempio preferisco il mare. Bella storia, la tua storia, quasi incredibile. E ancora poi ti guardo, ti giri, te ne vai. Cosa fai? Dove vai? Giochi di sguardi tra noi. E se non mi parli è perché mi vuoi. So che mi stai pensando, sai cosa sto pensando. Potrei provarci io con te, se tu ci stai però con me. E io ti spoglierò, se anche tu mi spoglierai. Voglio guardarti, voglio toccarti. Tu mi lasci senza fiato. Giochi di sguardi tra noi, tra noi. E se non mi parli è perché mi vuoi, è perché mi vuoi. So che mi stai pensando, sai cosa sto pensando. Potrei provarci io con te, se tu ci stai però con me. E io ti spoglierò, se anche tu mi spoglierai. Voglio guardarti, voglio toccarti. Tu mi lasci senza fiato. Rockway, l'onda del rock. Eccoli qua, i Sismica, all'interno dell'appuntamento live con Rock Wave, ci hanno presentato questo Giochi di sguardi. Allora, Maurizio, ci hanno lasciato senza fiato anche a noi praticamente. Che grinta che avevano, che forza, decisamente. Ho visto che correvi, Maurizio. Correvo. mi fai un altro giro di basso? Mi piace molto come suona il basso. Pacca del rock. Esattamente, fa parte del rock, assolutamente del rock. Benissimo, benissimo. Okay. Questa è una canzone scritta sempre da noi, come tutti i nostri tutti i pezzi scritti da voi. Ci sono delle cover, sì, ma quelle ne parliamo più tardi. Però sono tutti i pezzi che nascono da voi, sì. Si sviluppano da voi, costruite voi, li arrangiate voi. Dobbiamo citare una cosa importante: il manager è anche il loro papà che cura tutto quanto, praticamente. Sì, salutiamo, ciao Giulio. Salutiamo Giuliano, che è di qua, dall'altra parte del vetro. Che sta seguendo attentamente le evoluzioni del gruppo, mai veramente stanco di seguire, perché voglio dire, dopo 300 concerti, Giuliano, devi avere veramente. Comunque, se c'è tutto questo, vuol dire che alla base proprio c'è una vera e propria passione, non solamente dei figli ma anche del padre. Salutiamo anche nostra mamma, che ecco, a casa ci sta ascoltando. Benissimo. Bene. Saluto anche la redazione al femminile, la Patrizia, la Simonetta, la Patrizia, la Nicoletta e la Silvia, che collaborano sempre con Rock Wave dal vivo tutti i mercoledì e tutti i venerdì, solo questo venerdì, ma di solito tutti i mercoledì la Nicoletta, la Silvia e la Patrizia collaborano alla stesura di Rock Wave Live. Bene. Importante, Rock Wave Live. E quando ci sono io non vengono. E quando ci sei te, non c'è la redazione al maschile, c'è la redazione al maschile. Vabbè, allora ricordiamone, approfittiamo per ricordare anche il nostro numero di SMS, se avete qualcosa da chiedere anche voi, carissimi ascoltatori, ai Sismica, 346-23-200-33. Quindi ripeto, 346-23-200-33. Allora, Davide e Andrea, i Sismica, questi Giochi di sguardi, è nato dove? Questa canzone è nata in un locale, mentre stava facendo proprio un concerto, poi ovviamente l'abbiamo sviluppata dopo il concerto, ovviamente, però comunque la canzone è nata mentre stavamo suonando, perché comunque quando facciamo i live abbiamo il pubblico molto vicino e riusciamo a guardarle. Molto bello questo scambio di sguardi, ovviamente col pubblico femminile, molto, molto intenso, ecco, voglio dire. È quella la parte più bella. L'idea è nata là, allora, praticamente. Da un live, esatto. Da un live. Quindi già con le luci puntate voi comunque riuscite a guardare dall'altra parte, diciamo. Sì. Poi è una cosa importantissima, noi i concerti comunque li facciamo in due versioni. Sia la versione acustica, come sentite questa sera, quindi live acustico più soft, più tranquillo, che la versione rock. Com'è la versione rock? La versione rock è con la band. Allora io ho la chitarra elettrica. Sì. basso sempre, e poi c'è tastiera e batteria. Intanto colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i musicisti che suonano con noi, che sono Manuel Fabris, Steph, Filippo Ventuno, Jay e Jason. Beh, gruppo sono praticamente. Sì, sì, sì, sì, oh. Ma rock duro o rock così? No, in realtà è sempre questo il genere, no? Sì, sì, però facciamo un po' di pathos, esatto, cioè? Sempre i pezzi nostri, più cover a 360, sia italiane, anche qualcosina in straniero, commerciale, comunque pop rock commerciale. Sì, beh. Tra altre cose, a proposito di cover, lasciatemelo dire, sì, complimenti davvero, perché con Ivan Cattaneo, insomma... È andata bene, sì, sì, è stata una bellissima serata. Bene, sì. È un grande artista lui, eh. Sì, abbiamo lavorato con lui, è stato molto bello, e poi da questi artisti riesci ad assorbire tantissime cose, no? E tantissima energia per poi crescere anche tu. Lui è molto bravo, è un grande intrattenitore poi. Bene, allora diamo ancora spazio alla musica con i Sismica, visto che insomma siete qua per suonare, vero? Fatemi certo. Sentire una schitarrata. Oh. Siamo qui. Benissimo, allora ascoltiamo anche Donna, visto che ci siamo. Sempre sì, in versione live all'interno di Rock Wave, in questo mercoledì sera abbiamo i Sismica e ci fanno ascoltare questo Donna. A voi. Sento ancora il tuo profumo che mi prende e mi cattura. Di te io morirei, allora uccidimi. Tu dea del peccato, regina di seduzione, ora che mi hai tentato, per te all'inferno andrò. Se devo scegliere, meglio l'inferno al paradiso. Portami con te, io ti seguirò. Donna, regina del peccato. Donna, mi fai girare con un dito. Donna, che mi tieni appeso a un filo. Divertiti con me. Donna, così bella e complicata. Donna, una rosa avvelenata. Donna, la passione, il desiderio. Fai di me ciò che vuoi. Sento ancora le tue mani come spine sulla mia pelle. Apro gli occhi, sei davanti a me, io sono qui per te. Leccando i desideri, sfiorando i miei pensieri, io ti venderò anche l'anima. Se devo scegliere, meglio rischiare che stare senza te. Portami con te, io ti seguirò. Donna, regina del peccato. Donna, mi fai girare con un dito. Donna, che mi tieni appeso a un filo. Divertiti con me. Donna, così bella, complicata. Donna, una rosa avvelenata. Donna, la passione, il desiderio. Fai di me ciò che vuoi. Donna, donna, se io morirei, allora uccidimi. E eccoli qua, ancora i Sismica che stanno abbandonando in velocità gli strumenti solamente per riuscire a comunicare meglio, perché naturalmente ci sono, come i concertisti mi insegneranno, i microfoni per parlare e i microfoni per cantare, quindi adesso alterniamo, quindi vi troverete diciamo possessori in questo caso di quattro microfoni. Allora ancora benvenuti ai Sismica, ancora benvenuti a Andrea e Davide. È arrivato un messaggino per voi, c'è scritto: tesorucci, siete fantastici via radio, fate sentire a tutti quanto siete bravi. Cocorita Deborina. Le cocorite le salutiamo, il fan club delle cocorite, il nostro fan club. Vedi, c'è una cosa sotto. In effetti io appena ho letto questa cosa ho detto ci deve essere un messaggio cifrato. Benissimo, l'ispirazione di questo pezzo com'è nata? Questo pezzo intanto è un pezzo che abbiamo voluto offrire come omaggio a tutte le donne, no? Certo. Tutte le donne sensuali e aggressive, giusto, aggressive, Zebra? Certo. Che piacciono a noi. Soprattutto. Soprattutto a te, vero? Sì. Sei un po'... Sì. Lui è quello terribile. È quello terribile lui, sì. Ok. Si vede. No, se... no, è calmo. È così allora è nato... Chi è il più giovane di voi? Io. Ah, quindi tu devi essere più responsabile. Sì, no? Anche se sembro io in realtà più piccolo, vero? No, solamente sembrate assolutamente coetanei, se non fosse perché appunto ci vuole un distacco per essere naturalmente fratelli, quindi vabbè, comunque c'è 19enne e, sì, e poi... 17. Avrei detto 21 e 18, no, non di più. No. Benissimo, abbiamo anche Agostino che ne sta approfittando. Sì, non ha 17 anni Agostino, ciao, Agostino. Assolutamente no. Ringraziamo Agostino e anche Roberto Baldi che hanno curato le telecamere, dobbiamo sì, certo, dire anche questo, certo, è fondamentale. L'altra cosa è Agostino da 17 anni in pensione, per cui... sì. Va bene, riprendiamo con i Sismica. Allora, abbiamo ascoltato questo Donna e Maurizio incuriosito ha subito chiesto come... Sì, perché a me interessa sapere come nasce un pezzo delle band che vengono a presentare i pezzi d'oro, come nasce un pezzo degli Sismica. Io voglio sapere musicalmente come l'idea, come parte al di là del sistema. Proprio allora l'idea... La scrittura. Proprio la scrittura, non c'è appunto un metodo, perché a noi non piace avere un metodo, voglio dire, fare musica e scrivere un pezzo deve essere una cosa naturale. Deve lievitare un pezzo. Al 100%, sì. E se è la giornata, come soprattutto lui fa, se c'è la giornata che... Perché lui c'ha una giornata... No, io sono le giornate. Lui c'ha le giornate. Okay. Io sono la parte più metodica, invece sì, lui è la parte più istintiva. Okay. Per fortuna, perché così ci compensiamo, no? Certo. Perché è giusto che sia così. Sì, per fortuna. E comunque ci vogliono giornate e giornate, non puoi forzare una canzone. Non puoi. No. Perché la canzone deve venire fuori quando deve venire fuori, capito? A proposito di questo, mi raccontava Finardi tempo fa, c'era anche Flavio. Lui, per prendere ispirazione, viaggiava spesso in treno, aveva un taccuino, immediatamente scriveva quello che gli passava per la mente, immediatamente. Esatto. Noi facciamo la stessa cosa, solo che nel cellulare. Ecco, nel cellulare. Adesso esatto. C'è il cellulare, una volta c'erano i tacchini. Sì, sì. Adesso c'è la... Però mi piacerebbe, siccome sono un po' retro anche, mi piacerebbe avere la penna a scrivere. Sì. Ma è ancora bello, secondo me, scrivere sì, qualcosa. Sì, sì. Dopo chiaramente ci sono i cellulari, ci sono i sistemi nuovi, sono elettronici. Sono quasi tutte nate sul cellulare, le canzoni nostre. Cosa dice Flavio? Loro hanno i cellulari, noi alla nostra epoca c'era il taccuino, il quaderno. Vabbè, certo, per chi scriveva le canzoni, io non le ho mai scritte le canzoni. Esattamente. Diciamo che il taccuino ce l'avevo, ma non sapevo mai cosa puntare. Dopo... E poi cosa importante è anche quello che ti viene, perché sennò lo perdi. Cioè, esempio, molte volte a tutti e due ci capita che ci svegliamo di notte con una melodia in testa. A me succede spesso, ultimamente sento melodie cantate e suonate da altri cantanti. Ad esempio, ho sentito una melodia l'altra notte cantata e suonata da Neck, mentre un paio di mesi fa una cantata da Dolce Nera. Ah. Mi succede spesso, soprattutto artisti italiani. Allora subito ci svegliamo, io vado a svegliare lui. Perfetto. Li busso, certo. Oppure lui viene a svegliare me, certo. E subito registriamo, no? È importante catturare subito l'ispirazione. Sì, sì. Ma a proposito di artisti, le vostre collaborazioni... I genitori dall'altra parte, no, volevo chiedere a questo punto, i genitori dall'altra parte dice... Cosa no, dicono? Sì, ma si sono abituati poi, stanno no? producendo. Sì, sì, sono abituati. Parlavamo degli artisti, eccetera, le collaborazioni... Mi parlatemi un momento di questo discorso, è un discorso sì, importante. Allora, abbiamo veramente avuto la fortuna di collaborare e di conoscere vari artisti molto importanti, appunto come Ivan Cattaneo, che poi proprio abbiamo suonato con lui, no? Abbiamo fatto un concerto prima noi e poi è venuto lui a cantare, a suonare con noi, non solo i suoi brani, che tipo è Zebra Puano, sì, quelli famosi, però anche un pezzo nostro, è venuto a cantare Erotica, bene, sì, che sì, poi faremo sentire. E non solo, poi abbiamo anche suonato in serate dove c'era Lola Pons, vincitrice di Sanremo, no, di un paio d'anni sì, fa, mi pare. Catanzaro Music Awards. Esatto, l'anno scorso mi sembra. Sì. E sì, poi anche Vittorio Descalzi dei New Trolls. Ecco, proprio di Vittorio, lo sapete che si sono ricostituiti i New Trolls? Sì, dopo, sì, sì, grandissimi. Finalmente vi faranno concerto grosso numero 3. Parte ma la tournée, possono tenere eccetera, lo stesso eccetera, nome, Maurizio? Possono tenere lo stesso sì, nome? Sì, a quanto so sembra che... sì. Sai che ci so, c'è il so discorso legale, però a quanto sembra... Ma non solo, ma sai che hanno formato anche una band con New Trolls e PFM? Ah, questo non lo sapevo. Io ho sentito un pezzo del mio. Hanno... Quanti anni hanno? Dunque tutti Descalzi, insieme, D'Adamo, sembra... Di Palo, saranno sui ti giuro che hanno più energia di un ragazzino di 20 anni. Ne avranno 65. Sono pazzeschi. Sono sì, pazzeschi. Sui 60 anni sicuramente. Fanno impressione. E poi comunque dicevo Descalzi, sì, tantissimi altri poi. Quindi avete tantissimi altri, perché avete girato, avete, sì, fatto concerti dappertutto, sì, dall'Alpi alla Piraia, al Mazzanara e Reno, diceva tempo fa uno, esatto, molto anche famoso. Anche i Cugini di Campagna, fortissimi. Anche i Cugini, sì, di Campagna. Sì, Wes, grande Wes. Sì, quello, purtroppo, no, se n'è andato. Con Dori Ghezzi. Esatto, ecco, grandissimo, sì, Wes. Un artista straordinario, Wes. Lo Squillo. Adesso fa moda Joe Squillo. Sì, Joe Squillo si canta poi in realtà, anche ha fatto anche il concerto Amiche per l'Abruzzo, no? Sì, sì, esattamente, sì, è stata anche lei. Vabbè, tutte, sì, cose interessanti, sì, queste, sì, collaborazioni sono molto per crescere, tu, sì, hai detto, bello, giustamente. Sì, ma la cosa più bella, cioè, infine la cosa più bella di questo mestiere è riuscire a catturare e a percepire le cose migliori degli altri per farle tue e senza copiare. Sì, assolutamente mai. No. Sì. No, perché copiare l'ispirazione è una cosa... non vuol dire copiare, no, secondo assolutamente. Me. Assolutamente. Bisogna parlare degli artisti più grandi, quelli che... quelli più grandi, quelli che suonano da anni, e allora è bello, è la cosa più bella. Poi anche confrontarsi e parlare, discutere di musica con loro. In Italia c'è un po' di difficoltà. Voi avete portato avanti un discorso giusto, vero Flavio? Ma noi abbiamo ospitato anche artisti stranieri che non hanno queste difficoltà. C'è un comunione di intenti decisamente maggiore. In Italia qualcuno cerca sempre di curare il proprio orticello. Non è giusto, secondo me. Non so se siete d'accordo. No, perché questo non è musica. Esattamente. Ci vuole collaborazione. Sì, ma come... spirito di collaborazione. Questo è come fare razzismi musicali. Fare razzismo musicale, non sei un musicista se fai razzismo musicale. Perché la musica è bella tutta, se fatta con l'anima. Dal pop, al rap, alla dance, al jazz, al blues... tutta la musica è bella, è la classica soprattutto, bisogna ascoltarla, bisogna imparare da tutti i generi. Il musicista che fa razzismo musicale è meglio proprio che abbandona lo strumento. Non faccia più. No, no, no, assolutamente. Cosa dici Flavio? Adesso abbiamo parlato di collaborazioni attimo, musicali, sì, no? Sì. Allora c'è qualcosa di molto interessante, ne parliamo un momento, dello sviluppo, del concerto, dell'input... E quindi parliamo di Umberto Bindi, l'input. Il grande Umberto Bindi. Il grande Umberto Bindi. Dobbiamo ricordare una cosa fondamentale. Umberto Bindi. Il cantautore è nato, sì, da Umberto, sì, Bindi, ragazzi. Da Umberto Bindi, sì, è nato proprio... Cantautore è stato il primo, è stato lui. Umberto Bindi, la scuola genovese, è il padre della musica italiana. Sono d'accordo. Senza di lui non ci sarebbe niente. Esattamente, okay? Parte tutto da lui. Lui è il più grande, oltre comunque a essere il primo cantatore, che non era da poco. Lui, secondo noi, è comunque il... anzi, secondo noi, secondo tutti, perché è cosa certa, è il più grande compositore che abbiamo mai avuto in Italia. E credo anche uno dei più... anzi, forse il migliore che abbiamo avuto nel mondo. Perché Umberto Bindi aveva una maniera di comporre che comunque... non si ferma allo studio, che lui ha fatto tantissimi anni di studio, diplomato in conservatorio, ma non si ferma allo studio, ma è una cosa che parte dall'anima, hai capito? Cioè, uno può studiare quanto vuole, magari c'è stata gente che ha studiato 10 volte lui, che ne so, però non riesce a scrivere quello che aveva fatto lui. Sì, dobbiamo tener conto che la scuola genovese, sì, quindi Bindi, da Bindi, Lauzi, Tenco, esatto, e lo stesso De André. Sì. La scuola genovese parte da Bindi, c'è niente da fare. Sì. E là l'input parte. Dopo, Paolo è arrivato dopo. Paoli arrivava da Gorizia, è arrivato dopo. Però parte da Bindi, non c'è niente da fare. Il cantautore, proprio il marchio cantautore, è stato creato appositamente per lui. Sì. Questa è la realtà storica, c'è poco da fare. Esatto. È così. E come mai c'è questo rapporto con Bindi da parte vostra? Allora, noi abbiamo conosciuto Bindi. Musicalmente non da molto, e poi in realtà perché purtroppo lui è stato discriminato all'epoca, è stato un po' tagliato fuori, e ci siamo subito innamorati della sua musica appena l'abbiamo ascoltata, perché poi le musiche di Bindi la sentiamo proprio nostra, sì, hai capito? Non è un semplice artista che magari ascolti e apprezzi, però lo sentiamo nostro. Abbiamo cominciato a studiarlo, ad assimilarlo, ad approfondire, a leggere la sua storia, le sue cose, a capire la sua musica, perché bisogna capirla, bisogna, ed è un dono capirla, perché chi non capisce e non apprezza la musica di Bindi è sfortunato nella vita, è sfortunato, te lo dico, e basta. Abbiamo avuto questa grande fortuna di partecipare e di ad una serata in onore di Umberto Bindi a Genova lo scorso 30 settembre, al Caro Felice, al teatro praticamente, esatto, che c'è stato anche appunto Vittorio Descalzi, era uno degli ospiti, certo. E niente, c'è stato segnato un inedito di Umberto Bindi, uno dei più o meno 500 inediti che ha lasciato Umberto Bindi. Non ne abbiamo ascoltati parecchi, sono tutti stupendi. Stupendi, di una qualità bestiale. Sì. E niente, ci è stato assegnato uno di questi inediti con musica di Umberto Bindi. Lo sentiamo adesso allora? Ah, ok, lo sentiamo adesso? Sì, va bene, sì, sì, lo scaliamo dopo questo, va bene, va bene. C'è problema. Okay. Ah, perché ne abbiamo saltato. Ne abbiamo sì, saltato, ma va bene, io ma non importa. Però no, non importa. Cambia niente. È troppo importante Umberto Bindi, certo, certo. Io vorrei sentirlo live da voi, questo inedito, assolutamente, si chiama Il treno nella notte. Sì. Bene, allora lasciamo tempo ai nostri Sismica di prendere la È tutto dal vivo, sì, tutto dal vivo, non c'è niente di registrato, tutto live, basso. Assolutamente. Ancora ringraziamo Andrea e Davide che sono qui con noi. Allora ricordiamo il numero di SMS per comunicare con i Sismica: 346-2320033, a vostra disposizione fino alle ore 24. Ora i Sismica con Il treno nella notte. A voi ragazzi. E se il viaggio comincia da me, sono anni e chilometri che partono da casa mia. E se un mastro di ferro la strada, dovunque e comunque si vada, il viaggio c'è l'anima mia. E nel buio profondo ci vedo, a mondi diversi ci credo, due occhi di luce che cercano pace. Sono mille impressioni sonore di terre lontane, di mare. Non c'è una stazione, non c'è direzione. E se il viaggio comincia da me, non serve biglietto, perché in viaggio c'è già un clandestino. Se un mostro di ferro mi guida, dovunque comunque una sfida, l'ignoto sarà il mio cammino. E nel buio profondo ci vedo, a mondi diversi ci credo, due occhi di luce che cercano pace. E sono mille impressioni sonore di terre lontane, di mare. Non c'è una stazione, non c'è direzione. Vado via, ma resto sempre qui, accanto alla finestra in casa mia. E sarà, sarà perché è così. Un viaggio intorno alla mia fantasia. E se il viaggio comincia da me, bagagli non servono se è un viaggio da cui non tornare. Vado via, ma resto sempre qui, accanto alla finestra in casa mia. E sarà, sarà perché è così, un viaggio intorno alla mia fantasia. E se il viaggio finisce con me, non fate domande perché, perché non vi posso spiegare. Rockwave, l'onda del rock. Ed eccoci qua ancora, Rockwave, nella versione del mercoledì sera, assolutamente live. I Sismica hanno riposto i loro documenti, eccoli seduti nella postazione parlabile, diciamo. Una cosa interessante che sto leggendo: avete curato voi stessi gli arrangiamenti del pezzo, e questo è importantissimo. Che approccio si può avere a un pezzo inedito di Umberto Bindi e curarne l'arrangiamento? Guarda, prima di tutto una grandissima responsabilità, e quindi una cosa che abbiamo curato con grande impegno e comunque con grande piacere. È stato un onore pazzesco per noi, insomma, curare l'arrangiamento in acustico di un pezzo, insomma, del più grande cantautore italiano. Quindi è stata veramente una cosa bellissima, una grande felicità, una grande emozione. Sì, sicuramente. Ma soprattutto poi la serata. La serata com'è stato? La serata è stata felice. È stata in assoluto la serata più emozionante della nostra vita. Sì, sì, assolutamente sì. Perché poi non solo abbiamo fatto questa serata dal palco, no? Sì. Ma anche come pubblico. Sì. Ci abbiamo seguito comunque tutta tutto la serata, spettacolo. Tutto lo spettacolo, giusto? Dalla prima fila. E quindi si respirava un'aria di musica. Bello, bello. Un'altra domanda che vi posso fare è questa. Voi avete suonato anche il Piper. Il Piper, noi anzianotti di un certo tipo, il Piper rappresenta Jimi Hendrix, i Pink Floyd. Quello rappresenta il Piper. Voi avete suonato al Piper di Roma. Cosa si sente a suonare a un posto così importante? Jimmy Hendrix ha suonato là. È lì, i Pink Floyd, che non erano i Pink Floyd, hanno suonato là, ragazzi. Lì si respira aria di divinità, invece. Esatto, si respira un'aria incredibile. Sì. No. Anche se il Piper adesso non è bellissimo. Più il Piper di una volta. Però è sempre il Piper, sì. È sempre un mito. Esatto, poi anche artisti comunque, non solo questi grandi colossi della musica internazionale, ma anche poi Patti Pravo, tutti gli artisti, Renato Zero, tutti nati lì, no? Esattamente, sono nati là. È stato bellissimo, abbiamo suonato due volte noi al Piper Club, una nel 2007 e una proprio quest'anno. Siamo stati ospiti alla finale del Cantagiro. Ah, bene. 2009, perché nel 2008 poi abbiamo vinto il Cantagiro, il premio c'è al Cantagiro nel 2008. Che non era il Piper, però. Che non era il Piper. E come si fa a arrivare setting fra 1457 partecipanti? È una grande soddisfazione. È quello. Cosa dici, Flavio? Tra 1457 partecipanti, i primi set. Sembra quasi la maratona di New York. Esattamente. Poi è successo nel 2007 questo. Questa forza incredibile. Questa è una grande soddisfazione, poi anche perché? Perché comunque tutti i concorrenti erano bravissimi. Sì. C'era veramente a un livello molto alto. Noi li stimiamo tutti, certo. E quindi siamo felici, insomma, voglio e dire. Quali sono le armi per riuscire a scalare tutti questi ragazzi? No, ma musicalmente parlando, vi siete predisposti in quel momento? Non ci sono né armi né strategia, sono solamente Tanta grinta, tanta voglia di fare. Noi stessi, quello che siamo, ecco. Certo. Basta. Quello è importante, sì. Quello che siete. Non cambiate, no. Assolutamente. Bene, se non in meglio. Se non in meglio. Certo. No, sempre cambiare in meglio. Assolutamente sì. Benissimo, allora, parlavamo di varie collaborazioni con artisti di tutto il mondo. Cosa c'è nel qualche aneddoto, prossimo qualcosa. Futuro? Allora, nel prossimo futuro intanto c'è il programma di fare un album. Con l'etichetta, avete già l'etichetta? Etichetta grafica, Sunshade Record di Adriano Martino, di Roma. E niente, si sta cominciando questo percorso. Ecco, è già cominciato questo percorso discografico. Abbiamo già fatto dei singoli. Appunto, c'è in progetto di fare un album con alcuni dei pezzi. Noi abbiamo tantissimi pezzi, noi abbiamo 50 pezzi nostri. Diciamo che di materiale selezionato ce ne abbiamo più o meno per 3 album. Sì, ah, però esatto. È difficile selezionare per un 12 pezzi o 10 pezzi per un album vero no, e proprio? No. Quelli non che non ci piacciono, non li buttiamo via, però dico li scartiamo. Metti nel cassetto. No, vediamo subito quello. Nel cassetto, non buttare via niente. Siamo molto selettivi, soprattutto con le cose nostre. Certo. E critici. Selettivi e critici con le cose nostre è la cosa principale poi per migliorare, no? Certo. Voglio dire, se tutto quello che fai ti piace e va bene, allora non fai più niente. E basta, questo album, sempre con i concerti, quindi continueremo con il nostro 120 concerti all'anno fissi. E poi ci saranno altre serate in onore di Umberto Bindi, molto molto importanti, che si terranno in varie città come Genova, Milano, Roma. Ci saranno artisti molto importanti. Significativi. A cui verranno assegnati altri inediti. Sì. E poi ci sarà la compilation. Sì. La compilation dove metteranno vari inediti di Bindi cantati da vari artisti. Ci saremo anche noi. E poi anche proprio, insomma, molte chicche. Cose da non perdere. Bene, interessante, molto interessante questo discorso. Bene, allora diamo ancora tempo prima di ascoltare un disco. Direi che potete approfittarne per parlare d'amore, con queste parole d'amore che è il titolo di un altro dei vostri pezzi, tra tutti quelli che prima citavate. Quanti? Ho capito bene, 300? No, di pezzi? Sì. Beh, in realtà poi di bozze ce ne avremo centinaia. Di pezzi veri e propri ce ne abbiamo 50. Ah, 50. E allora, di materiale per fare un po' di album ce l'abbiamo, insomma. Ho capito, certo, anche per fare un triplo album a questo punto. Beh, una volta un po' alla volta. Una volta si usavano anche il triplo album. Sì, può no, darsi. Però un album ha bisogno di... cioè, deve uscire nel momento giusto. Non, certo, puoi fare un album per farlo, no, voglio dire, bisogna aspettare il momento di farlo. Ma arriverà il momento. Sì, sì, sì. Ok, bene, allora arriva il momento anche per i Sismica per riposizionarsi nella loro postazione, in maniera che possiamo ascoltare ancora qualcosa della loro musica. Rockway, l'onda del rock. I ricordi di un'avventura possono far male o fare paura, possono riempirti il cuore di gioia, farti crescere, imparare a volare con la fantasia. E mi sussurravi in un orecchio, poi la tua voce svaniva nel vento. Così dicevi parole d'amore, intense emozioni da rivivere così, momento per momento, una storia io e te. Parole d'amore, voce di una canzone da cantare e ricordare quando sono solo, insicuro e manchi tu. Le distanze e la verità possono causare l'infedeltà, possono far bene alla relazione e fare sbocciare di nuovo l'amore. E quando sdraiati su un prato fiorito, un petalo si poserà e in un letto di fiori e di nuvole e favole ti dedicherò parole d'amore, intense emozioni da rivivere così, momento per momento, una storia io e te. Parole d'amore, voce di una canzone da cantare e ricordare quando sono solo, insicuro e manchi tu. E stringendoti al mio petto io ti porterò in un mondo fatto di noi due, disegnando le tue labbra, colorando di emozioni, a te dedicherò parole d'amore, intense emozioni da rivivere così, momento per momento, una storia io e te. Parole d'amore, voce di una canzone, da cantare e ricordare quando sono solo insicuro e manchi tu. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ancora buona serata a tutti, sempre su Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave nella versione live. In questa serata di mercoledì 27 gennaio del 2010 abbiamo i Sismica che ci stanno proponendo le loro canzoni e le loro esperienze musicali. Quindi diamo ancora il benvenuto ad Andrea e Davide nelle nostre frequenze. Andrea voce chitarra, Davide basso e voce, bel basso, che bello quel basso nero, di colore nero, ha una certa propensione, una certa forza. Questo era proprio un impasto vocale, una canzone pop a 360 gradi, secondo me, questa. Cosa esatto, dite? Sì, sì. Una canzone d'amore. Una ballata, indubbiamente. Poi gli incasti vocali perfetti, ad hoc, decisamente ad hoc, secondo me. Davano benissimo. L'idea di incasti vocali, come l'avete avuta? Allora, poi in realtà il progetto inizialmente era nato con una voce solista, che ero io, e con un coro. Che era lui, il no? Fratello, sì. Esatto, però adesso in realtà ci siamo proprio divisi in due le parti da soliste, cioè quando io faccio il solista lui fa il coro e viceversa, praticamente cantiamo, ci dividiamo a metà il repertorio. E quando c'hai la chitarra elettrica sul palco con questo pezzo, come la svolgi, come la costruisci? Diciamo che allora la parte iniziale... Stasera c'è l'acustica chiaramente. Sì, la parte iniziale è più o meno simile, quindi sì. Arpeggiata. Con un effettino chorus. Appena un effettino. Sì, un effettino chorus che dà un po' di armonia. Certo. E mentre la parte di ritornello, quello che più tirano, con un bel power e distorto, comunque... Per chi non sa che cosa vuol dire, puoi spiegare un po' il power? Il power è una tecnica semplicissima, è la tecnica per suonare rock, infine, no? È un power chord, cioè sarebbe una cosa da spiegare qui. Sì, per dare un po' di impulso, sì, di vigore. Esattamente, è la classica tecnica per suonare tutti i brani rock, no? Esattamente, perché voi non lo sapete, ma Flavio è un grosso batterista. Adesso nasconde grosso, dietro il microfono, ma era un grande batterista. Grosso, grosso no. Diciamo grosso, ma grande batterista, dai. Portavi la batteria e suonavamo insieme, no? È vero. Adesso dalle parti vostre, vicino dove abitate voi. Per cui... Quindi il discorso... Questo è un pezzo decisamente pop. Pop accattivante, ma non accattivante negativo, accattivante che prende, che entra immediatamente in circolo, secondo me. Sì, ti piace l'ho sentito così. Ti piace variare comunque anche nei generi... Cioè, comunque è sempre pop rock italiano, però dalla canzone più tranquilla, quella pop rock... insomma, ti piace variare. Che funziona la batteria nei live, praticamente? La batteria... È fondamentale, perché con lui poi ci danno un tiro, lui è il batterista, sì, lui è il batterista da paura. È proprio la crema, il basso e la batteria dalla crema del rock. È la macchina del ritmo. È la macchina del ritmo, ragazzi. Esattamente. Senza di quello. Bello, bello. Poi questa intesa tra batterista e bassista è fenomenale. Bisogna essenzialmente che... Come dice lui, vero Zebra? Sì, che bisogna conoscersi anche soprattutto. Eh beh, certo, assolutamente, anche al di fuori del palco. O basta uno sguardo, no? Magari, sì, assolutamente, se si improvvisa. Sì. Succede che improvvisate proprio nel pezzo stesso, lo allargate, lo costruite come volete. Sì, ma non solo nel pezzo poi. Beh sì, il pezzo in prova poi magari si fa... Sì, no, dico live, immediatamente. Live succede anche che improvvisiamo proprio dei pezzi che non conosciamo quasi. Cioè che non abbiamo mai provato assieme. Li mandate proprio là, in quel momento. Sì, magari ci richiedono perché lo richiedono, no? Sì. Allora lo fai. E non lo facciamo. Abbiamo fatto anche... Che ne so, domenica abbiamo fatto anche un blues. Esatto. Abbiamo fatto anche Santana. Abbiamo fatto tutto. Non so perché, infine. È giusto che sia così. Sì, infine. Facciamo anche dance. Perché sì, no? Esatto. Cioè, la gente vuole ballare, noi facciamo anche dance anni 70. Però. E diciamo che la cosa fondamentale per noi è quella di mettere le canzoni nostre. Poi, siccome noi la musica piace tutta, possiamo fare tutto. Ecco, insomma, ovviamente. Nei limiti, certo. Sì, sì. Anche nei limiti strumentali, essendo in quattro. Però con quattro c'è un bel vigore. Sì, anche i Led Zeppelin erano in quattro. Classica formazione rock. Chiaramente. Sì. Visto, dimmi. Anche i Beatles. Anche i Beatles erano in quattro. Anche i Rolling erano in quattro. Sì, cioè, insomma, il quinto Rolling era un po' nascosto, ma erano in quattro. Sì, poi l'hanno anche fatto fuori. Esattamente. Si è fatto fuori da solo, di questo non è chiaro. Per cui, vabbè, sono le 23 e 2 minuti primi. Io direi che potremo ascoltare anche un pezzo del disco, lasciare un po' di, come dire, di fiato ai Sismica, che comunque si stanno comportando davvero bene, cioè un'energia a mille, voglio dire, all'interno di Blu Radio Veneto. E voi, carissimi ascoltatori, state non solamente ascoltando Blu Radio Veneto, ma anche guardando, perlomeno si vede dai numeri, il nostro sito internet, dove compaiono sia Maurizio Calzavara, bellissimo anche questa sera, e Sismica all'interno delle nostre webcam su rockwave.altervista.org. Posso dire una cosa importante? Certo. Però se no me la dimentico, scusate. E intanto vi ricordiamo che ci potete trovare su Facebook, Sismica Andrea Davide, e su myspace.com/sismicahit per vedere tutti i nostri concerti. Poi anche dal Facebook, Sismica Andrea Davide, ripeto, lì vi aggiorneremo, vi mandiamo le mail, gli inviti con tutte le serate, settimana per settimana. Tutto qui. Va bene, allora abbiamo ospitato con piacere anche tutti questi indirizzi, e magari li ricordiamo anche più tardi. Adesso piccolissimo stacchetto di Rock Wave e poi partiamo con una canzone da disco che commenteremo insieme. Parlami di te, e del tuo cuore Rock Wave, l'onda del rock. Ed eccoci qua ancora all'interno di Rock Wave, l'onda del rock, in questo mercoledì 27 gennaio del 2010. Stiamo piacevolmente conversando, parlando ed ascoltando le canzoni dei Sismica che sono venuti a trovarci in questa serata. Abbiamo ricordato prima il nostro numero di sms 346-23-200-33, vale la pena di ricordare. Adesso si è appena ripristinato anche il servizio sms, avevamo combinato qualche forse caos da un punto di vista tecnico. Bene, sono arrivati messaggini, allora vediamo. Ciao, sono Aldo da Monselice, volevo solo ringraziare Sismica perché grazie a loro e alla loro canzone ho conosciuto Valentina. Continuate così ragazzi, perché il mondo, no, aggiungo io, voglio dire, il mondo ha bisogno di voi, ecco. Quindi un grazie altro... Aldo, saluto Aldo. Ecco, poi un altro è arrivato da Pamela e Umberto, i mitici Sismica, con un mega saluto. Ciao ragazzi. Benissimo. Poi ancora, vi prego, fate fare un saluto dai Sismica a Valentina, che ho conosciuto grazie a loro. Sempre Aldo da Monselice. Valentina, allora Valentina, un saluto a Valentina. Ciao Valentina. Bene. Ti aspettiamo, Poi c'è ancora sempre la cocorita Pamela e poi ancora il poeta Umberto, abbiamo già citati prima se non sbaglio, sì. Quindi si stanno sbizzarrendo con il loro telefonino. E poi Fiorenza e Martina vi scrivono, ciao, siete bravissimi, un bacio rock. Ciao ragazzi, un saluto, grazie mille. Poi ancora Aldo, vorrei anche chiedere ai Sismica se i loro testi vogliono insegnare qualcosa ai giovani o se si sentono dei modelli per questa generazione. Allora, no, cioè, non vogliamo insegnare niente a nessuno, assolutamente, e neanche dei modelli, perché non è giusto. Vogliamo semplicemente, cioè, ci piacerebbe, ecco, e ci piace quando il pubblico insomma si ritrova nei nostri testi e nelle nostre canzoni, che poi fanno parte della nostra vita, in quello che pensiamo, in quello che siamo, e siamo felici che insomma che Aldo faccia parte di questi. Grazie Aldo. Benissimo, poi ancora ci sono i Sismica, sono delle meravigliose creature e dovete assolutamente salutarmeli in diretta per fargli sapere che li sto seguendo anche stasera e che gli voglio, beh, è finita il messaggio, non sappiamo chi abbia scritto, ma magari è questo. Che li voglio, nel senso... Poi c'è Robertina che vi scrive, sempre super bravi e super belli, la vostra fan numero uno. Ciao Robertina. Ecco, benissimo, quindi voglio dire, in questa serata avete, voglio dire, fatto il pieno, nel senso che avete ultra pubblicizzato, come fate solitamente voi all'interno dei vostri siti, date proprio. Certamente, se seguono... La gente segue molto i nostri siti e ringraziamo veramente di cuore tutte le persone che ci seguono settimana per settimana ai concerti, ancora il fans club delle Cocorite, li ringraziamo veramente tutti quelli che sostengono il nostro progetto, perché comunque le cose non si fanno mai da soli, si fanno soprattutto principalmente con la gente. Ringraziamo tutti veramente di cuore, ringraziamo anche Massimo Artesi e tutti gli amici di Roma che stanno ascoltando sicuramente da Roma in questo momento. Guarda, ne è arrivato anche un altro, a costo di consumare tutta la scheda del telefono, ecco qua, vi ripeto che i Sismica sono delle meravigliose creature, per favore salutatemeli e ditegli che gli vogliono bene sempre, però ancora non ciao, si firma. Ciao, chi è? Non c'è scritto? Non c'è, assolutamente. Comunque ringraziamo tutti, anche Chiara, tutti Chiara di Roma, tutti i ragazzi, tutti veramente, grazie di cuore, Umberto, Pamela, tutti quanti quelli che ci seguono. Bene, allora Sismica, carissimi, dopo le 23 noi abitualmente facciamo una domanda un po' così, per delle persone un po' così che vogliono parlare sempre di musica, non della vostra musica in questo caso, ma della musica di altri artisti famosi ai quali voi dedicate del vostro tempo negli ascolti con CD, dischi o qualsiasi altro supporto, diciamo, musicale. Allora, Maurizio, poni tu questa domanda fatidica. Sì, la fatidica domanda. Non so, facciamo 5 o 3 dischi, Flavio? Visto facciamo, che il tempo facciamone 3, dai. Facciamone 3. Così i 3 dischi che vi hanno cambiato il mondo di suonare, di sentire, di trovare la musica. Allora io direi va bene così di Vasco Rossi. Vasco perché? Soprattutto perché Vasco. Allora, perché va bene così? Comunque Vasco va bene così perché è stato proprio il primo disco che ha dato a noi l'input, come dicevo prima, all'amore per la musica. Poi perché Vasco comunque lo riteniamo il più grande comunicatore della storia. Se Umberto Bindi è il più grande compositore della storia, Vasco Rossi è il più grande comunicatore della storia. Poi direi Caro qualcuno di Umberto Bindi, assolutamente chiaro. Disco fantastico. E anche Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber. Un altro artista straordinario, Giorgio Gaber. Tra le altre cose c'è anche Iacchetti che sta portando in giro adesso lo spettacolo di Giorgio Gaber. È bellissimo. Esatto. Tocca a te. Allora, Urlo di Pia Tuzzitto, che è una cantante molto brava. Assolutamente sì, e anche nostra grande amicona di Blu Radio Veneto. Abbiamo intervistato perlomeno telefonicamente 4 volte, oserei dire, sono capitate sempre a me queste fortune, ecco, tra le altre cose, e io ho sempre sperato di potermela vedere così come vedo voi ragazzi, perché effettivamente ascoltando L'Urlo, ma anche Un segreto che è stato il suo precedente disco, veramente viene la voglia proprio di conoscerla da vicino, e voi che l'avete fatto e avete avuto questa emozione potete solo confermarmi che è una grande ragazza, stupenda. È grande. Poi assolutamente Californication dei Red Hot Chili Peppers. Grande disco California. Tabassista poi disco voglio dire. Del ritorno. Voglio dire, ecco. Del ritorno dei Red Hot Chili Peppers. Ecco. Ma ce ne sarebbero tanti. Ma solo tre e poi c'è un altro assolutamente per concludere. C'è un CD di Lorenzo Giovanotti. Che... Sì, uno a caso. Sì, no, sì. No. Lorenzo, non mi ricordo come si chiama esattamente. Non mi... Sì, una Lorenzo la 99. Prima... Capo Horn. Sì. No. No. Boh. Quello del 99, non so. Sì, del 99. Sì, l'anno di uscita del 1999. Sì. È un disco interessante, come tutti i dischi di Giovanotti. Sì, lui ha sempre fatto delle cose diverse, sì. Non si è mai copiato fra di lui. Cioè, ha sempre cambiato, ha sempre portato avanti. Poi l'ultimo ha fatto un stato successone, perché era un disco abbastanza... Avanti. Scusate, abbiamo trovato il detentore titolo? Di quel messaggino di prima. Ok. Sì, fantastico. Si chiama Sara detta la Rossa. Ciao Sara. Che vi voglio bene, voleva scrivere la parte finale del messaggio. Tu subito a pensare male, Zebra, voglio dire. No, mi piace quando... tu lo chiami Zebra, sì. Ma lui come ti chiama? Ah, ma io mi chiamo Andrea. Andrea, non ho soprannomi in realtà. Lui è Davide Zebra, no? Davide Zebra, va benissimo. Bene, comunque non è... Cioè, voglio dire, non è difficile confondervi, nel senso che siete agli antipodi da un punto di vista. Sì, anche della pettinatura, davvero no, complimenti. No, siamo opposti completamente, anche di carattere. Bene, e poi arriva un altro messaggio. Da Ernesto e Letizia, ciao, siete sempre grandi, mitica, sismica. Ciao ragazzi. Bene, allora cosa dite? Vi do ancora spazio per andare su quella postazione e per suonare, suonare ancora qualcosa. Cosa tocca adesso? Ma io direi di fare un pezzo nostro che si intitola Credi. Bene, okay. Allora all'interno di Blu Radio Veneto questo è Rock Wave nell'appuntamento dal vivo, e allora vai con i Sismica e con questo Credi. Blu Radio Veneto, Veneto come non l'hai mai sentito. Credi che a volte fosse stato forse meglio non stare insieme a me. Credi che le storie, anche quelle più noiose, non siano pericolose. E credi nell'amore, credi nelle favole, credi nella magia. Ascoltami. Ricordati quando ti dicevo sempre non mi importa della gente, tu eri con me quando il sole tramontava e la vita poi sorgeva alla luce dentro di noi, e la primavera ci sfiorava con un bacio, ci tradiva e in un canto gioiva. Thank you. tuo mondo, credi nel tuo Dio. Io ancora cerco il mio. Sì, credo che anche tu ne stia soffrendo, sì, lo so. Ma qui niente è regalato, va sudato. Qui niente è scontato. Ora cerca di fidarti, cerca di rialzarti e credi a me, ascoltami, sconvolgimi. Quando ti dicevo sempre non mi importa della gente, tu eri con me. Quando il sole tramontava e la vita poi sorgeva alla luce dentro di noi, e la primavera ci sfiorava con un bacio, ci tradiva e in un canto gioiva. Dicevo sempre non mi importa della gente, tu eri con me. Quando il sole tramontava e la vita poi sorgeva alla luce dentro di noi, e la primavera ci sfiorava con un bacio, ci tradiva e in un canto gioiva. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Eccoci qua ancora all'interno di Rock Wave, ancora con i Sismica. Davide e Andrea, stanno piovendo letteralmente messaggini. A questo punto ci conviene prenderci anche un ombrello. Leggiamo gli ultimi due che sono arrivati. È impossibile non seguirvi, bravi, belli, ci fate sempre sognare e passare serate stupende. Un bacio da Frenchy. Poi ancora vediamo chi c'è, è arrivato anche un messaggino da Marti, siete stupendi, continuate così, ciao. Grazie ragazzi, grazie mille di cuore. Bene, quindi avete tante persone che credono in voi. Sì. È per questo che è venuto questo Credi. Esattamente, proprio per quello. È un pezzo assolutamente rock questo. Sì, questo sì, poi live, batteria, live spacca, proprio. Spacca, è live, sì. Chitarrone elettrico, batteria 100... il pezzo più rock. Ma il solista nel live. Sì. Beh. Esattamente, sì. Però rendeva parecchio anche in questo. Sì, anche in questo. Ma sì, perché poi sono canzoni che comunque nascono così, chitarra basso, no? E quindi per quello ci stanno. Sì, versione acustica, tra virgolette, perché questa qua è una versione acustica, sì, però decisamente rock. Esatto, sì. Anche se è chitarra rock. Basso, acustico, chiaramente. Esatto. L'acustico sì, perché questa è la nostra dimensione, però se era rock nessuno poteva dire niente, esatto. Assolutamente. Benissimo. Un'altra cosa volevo chiedere, sì, il pezzo com'è nato questo qua? Vi ricordate in che momento? Credi? Sì, Credi. Credi è nato a casa, tranquillamente, da un giro di chitarra. L'hai fatto te o l'ha fatto tuo fratello? Allora, il giro non mi ricordo più. Chi se lo ricorda? Non si ricorda. Comunque l'abbiamo fatta insieme. Mi ricordo che l'abbiamo fatta in camera insieme, quindi insieme di sicuro. Non mi ricordo da chi è partito il giro. Beh, non importa. Va bene. È nato in quel momento. Comunque, là. Sì, è nato a casa questo. E poi si è sviluppato, chiaramente. Sì, si è certo. Sviluppato. Poi, ovviamente, l'abbiamo sviluppato con la band. Che ancora salutiamo tutti i ragazzi della band. Che sono dei ragazzi, sono appunto in live una tastiera e una batteria, però sono più musicisti che si alternano, esattamente. Quindi, Manuel Fabris, Steph, Filippo 21, Jay e Jason. Sono dei bravissimi musicisti, molto, molto in gamba. Ci troviamo molto bene. E si suona insieme, è la cosa più bella. Una cosa che voi non avete avuto nessun problema, noi abbiamo ospitato tante band nel corso di 5 anni di Rock Wave e tantissime hanno sempre detto questo: noi abbiamo difficoltà a suonare pezzi nostri perché tutti quanti vogliono far sentire Ligabue e Vasco, non è caso vostro. Ma in questo caso diciamo che noi abbiamo adottato una strategia diversa, cioè fare sì le cover per poi far sentire le canzoni nostre. Chiaro, voglio dire, quello, no? Sì. Perché le cover va bene, non sarebbe neanche giusto di non farle, perché infine le fanno artisti come Pausini. Poi non lo so se lo facciano per piacere o perché non hanno canzoni, ma non credo, no, che non abbiano canzoni, perché comunque hanno uno staff dietro che è da paura. Certo. E quindi non è per quello sicuramente. Allora perché non dobbiamo far noi le cover? Cosa vuol dire? E poi le cover è giusto selezionarle che abbiano un senso, voglio dire, no? Come un paio di cover che faremo poi. Sì. Sì. La prossima, sì, sono molto interessanti. Una è Letti. Sì. Di Umberto Bindi. Certo. Ah, che magari sì, è la prossima, sì, che facciamo, quasi, ecco, quasi. Facciamo. Certo. Perché sì, no? Sì, sì. Questa canzone di Umberto Bindi, questa cover di Bindi e la canzone dopo che faremo di Giorgio Gaber non sono scelte a caso, ma sono canzoni che cantiamo perché ce le sentiamo nostre. Cioè sono cose che avremmo voluto scrivere noi, però ovviamente sono già state scritte e quindi le interpretiamo, voglio dire. È una canzone di Umberto Bindi, Letti, Sanremo 1996, ultimo posto, perché era la canzone più bella. Esatto. Mi sembra ovvio, no? Umberto Bindi con i New Trolls, grandissimi New Trolls, musicisti da panico. Musica di Umberto Bindi, testo di Renato Zero. Direi che Renato Zero, autori di grandissimo livello. Direi che Renato Zero qui ha messo uno dei testi più belli che abbia mai scritto. Sì. E niente, una canzone che è arrivata ultima, scusami. In realtà perché è la più bella. Ma anche Vasco è arrivato ultimo. Appunto, cioè voglio dire Zucchero uguale, no? Ma niente. Ma perché assolutamente. No, un gran capolavoro. Per visibilità va benissimo Sanremo, però poi anche se si arriva ultimi non bisogna più temere questo regolamento. No, certo. Ce lo insegnano proprio chi ci è passato. Certo, certo. Abbiamo allora preparatevi che cominciamo a suonare perché avete ancora tanti pezzi, però la mezzanotte non ci perdona. Ci scaccia letteralmente fuori dalla diretta, perché naturalmente si dà poi la linea ad altre trasmissioni. Mentre vi preparate, carissimi Sismica, sono arrivati altri messaggini per voi, quindi Andrea e Davide, grazie di esistere sempre. Io Sara, questa deve essere deve avere chi è che conosce bene Sara. E allora poi c'è un altro che dice: in radio vi ho sentito, in auto vi ho apprezzato, in un locale vi ho ascoltato e di voi mi sono innamorato. Ai Sismica in radio stasera, anche a Blu Radio. Umberto. Grande poeta Umberto, devo dire. Non è Bindi, perché no. No, non è Umberto Bindi. No, chiedo, non si sa mai. Vabbè, allora Sismica, tocca a voi. Letti di Umberto Bindi. Letti di avvenimenti, di battaglie, voglie ed olie. Letti che sanno tutto ormai, di vite maltrattate, di tragiche nottate. Letti che non ti spieghi mai. Se vuoi conoscere chi sei, se vuoi sedurre la realtà, mettili a letto quei pensieri. L'alba che riguarirà gli errori tuoi finiti amori. È lì che si scatena l'anima. Rimescolando solitudini, un letto sa confondere. confonderti. Stracci o rarissimi merletti, ognuno giace come merita, come si immagina, come vivrà. Lo stesso letto, tu lo sai, stessa ostinata compagnia. Se fosse un angelo a svegliarti, a ricordarsi almeno lui che ancora puoi, che non sei solo. È lì che ha un senso avere un'anima, perché chi può dimenticare. Ma trovagli un letto a certi uomini e rischierai di perderli. È lì che si scatena l'anima, Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rockway, l'onda del rock. Ed eccoci ancora qua magicamente in diretta. Siete super quotati, diciamo che sia Vodafone, Wind, Team, tutti vi vogliono bene, Sismica, perché stanno arrivando messaggini, mi sembra anche uno da Roma adesso, da come ho capito. Quindi cominciamo, non ci sono parole, siete grandi. A sabato, un bacio grande. Agata, cosa fate sabato? Sabato si suona ovviamente, no? Poi se si vanno nel nostro sito myspace.com/sismicahit vedono tutte le date, quindi anche quello di sabato e tutte le indicazioni per arrivare al posto, e anche sul Facebook Sismica Andrea Davide. Poi ancora dite ai Sismica che la loro musica risuona nel mio cuore anche a 600 km di distanza, e lo fa battere Serena da Roma. Ecco. Ma grazie Serena, grazie. Poi c'è arrivato un MMS, ma non riusciamo ad aprirlo con i nostri potenti mezzi. Sceglieremo il codice e ve lo daremo poi fuori dalla diretta, potrete curiosare voi. E tesori, siete fantastici, una cocorita si chiama Barbara. Qua. Un'altra ancora, cocorita, grande ecco. Cocorita Barbara. Poi ancora ragazzi, non riusciamo a vedervi, ma vi stiamo ascoltando e cantiamo con voi. Siete grandi, baci da Roma, Chiara. Ecco perché scrivono così, abbiamo diciamo la linea piena, abbiamo parecchi riferimenti che vi stanno anche guardando, stanno guardando anche Maurizio, diventerai conosciutissimo sì. In questo caso, in questo frangente io mi sento ancora fuori. Ma c'hai la telecamera anche a te a qualche parte? No, te l'hanno levata, no, è stato fortunato. Sì, assolutamente sì, devo dire. Vabbè, comunque ancora qualche messaggio. Sempre da Roma, baci anche da Chiara. Quindi poi ancora un altro messaggio. No, questo è proprio assolutamente illeggibile. Vabbè, non importa. Abbiamo finito qua. Volevo solo sottolineare una cosa, il pathos con cui avete cantato questo pezzo, lo sentivate vostro come vostro, sì. Precisamente un grande trasporto, l'avete seguito acustico, però dal vivo con gli strumenti elettrici sarebbe stato ancora più potente. Poi questa è un'altra cosa importante, e le chitarre poi tra l'altro sono state curate e suonate, come tutto l'album di Umberto Bindi, che è Di Coraggio Non Si Muore, l'album dove c'è questa canzone, certo. È stato curato le chitarre dal nostro produttore, poi tra l'altro, quindi chiudiamo il cerchio. Esattamente. Sì, questa canzone è speciale, non lo so, perché è molto strano, è magica, come tutte le canzoni di Bindi, questa in particolare poi... Cioè, la sentiamo nostra, capito? E si vede, si è visto dalle telecamere, vi hanno inquadrato, si è visto il trasporto che avevate mentre curavate il pezzo, lo cesellate, si può dire così, insomma. Sembra un pezzo vostro. L'ha scritto Renato Zero, sono d'accordo, e l'ha scritto Umberto Bindi. Può poteva essere anche scritto dagli sismi. Insomma, no, dai. Non si sa mai. Vabbè, però la buona strada, esattamente, la buona strada c'è, anche i punti di riferimento che loro stanno seguendo sono importanti, per cui allora, siccome il tempo è tiranno e purtroppo noi non vorremmo mai lasciare andare via, non tagliamo niente. Assolutamente niente. Io leggo ancora un paio di messaggini, voi vi riproponete ai vostri strumenti e magari cosa dite? Facciamo due pezzi. Un attaccato all'altro, cosa dite? Magari li scomodiamo meno. Va bene, ecco. Ma bisogna tagliare qualcosa? Siamo fuori tempo? No, non tagliamo niente. Siccome abbiamo ancora una mezz'ora da gestire, allora. Non tagliamo niente. Qui a Rockway non si taglia niente, assolutamente. Questo è il nostro credo musicale. Assolutamente. Allora, ancora due messaggi che ci sono arrivati al 346-2320033. C'è ciao Andrea e Davide, continuate così che siete grandi. Un bacio, Jessica da Padova, vi voglio bene. Poi ancora fantastici come sempre, Sismica, straordinario come la vostra stupenda musica, mi facciate emozionare. Trilli da Vicenza. Ciao Trilli. Bene. Ciao Trilli. Allora, è un'amica di Peter Pan, se non sbaglio. Sì, beh, ma noi siamo appassionati poi, eh. Certo. Perfetto. Tutte quelle cose lì. Bene, allora spazio alla musica con i Sismica. La nostra pomeriggio di domenica. Pensando a te lascerò cadere una lacrima sopra un fiore in un pomeriggio di domenica. Ho sentito il tuo calore scaldare il mio cuore, ho sentito sciogliere la neve sul mio petto tra le lenzuola, ho sfiorato le tue gambe volando sul tuo seno, ho dipinto d'azzurro il soffitto fingendo d'essere in paradiso, ho chiuso in un cassetto le mie brutte fantasie ed ho gettato via la chiave, così non usciranno mai. Pensando a te una lacrima sopra un fiore in un pomeriggio di domenica, guardando fuori dalla finestra lunedì, capirò che il nostro amore non è un film di Steve McQueen. E passando ore ed ore a urlare contro un muro, niente più sicuro, neanche il futuro. Ho scritto musica con le tue parole, ho finto d'essere qualcosa di migliore. Ho capito di dover cantare per non impazzire. Come ho voluto star con te per imparare ad amare. Ho camminato per le strade, ho conosciuto molta gente. Ho chiuso in un cassetto le loro stupide bugie. Pensando a te lascerò cadere una lacrima sopra un fiore in un pomeriggio di domenica, guardando fuori dalla finestra lunedì, capirò che il nostro amore non è un film di Steve McQueen. E passando ore ed ore a urlare contro un muro, niente più sicuro, neanche il futuro. Na-na-na-na-na-na-na. Pensando a te lascerò cadere una lacrima sopra un fiore in un pomeriggio di domenica, guardando fuori dalla finestra lunedì, capirò che il nostro amore non è un film di Steve McQueen. identità. Mi piacerebbe vivere nel fondo del mare, senza che nessuno mi possa giudicare. Mi piacerebbe stare lontano, lontano, così la gente non mi chiederebbe più: come stai, ma chi sei, dove vai, ma che fai, che ore sono, non lo sai, senza sapere cosa è giusto per me. Senza paure dire quello che penso io, che il mondo è una palla che gira intorno e prima o poi si bucherà, esploderà, e che l'Italia è una gabbia di matti, ma i manicomi li hanno chiusi da un po', per non parlare delle religioni che ci hanno rotto i co-co-co-co-co-co. Come stai, ma chi sei, dove vai, ma che fai, che ore sono, non lo sai, ma che vuoi, ma che hai, che ti prende, cerchi guai, attento a quel che fai. Mi piacerebbe vivere sulla luna, così mi porterebbe un po' di fortuna. Mi piacerebbe stare lontano, lontano, così la gente non mi chiederebbe più: quanto vuoi, cosa sei, dove stai, cazzo vuoi, mi rispondi o non lo sai, ma ora io so ciò che è giusto per me. Senza rimpianti dire quello che penso io, che il mondo è una palla che gira intorno e prima o poi si bucherà, esploderà, e che l'Italia è una gabbia di matti, ma i manicomi li hanno chiusi da un po', per non parlare delle religioni che ci hanno rotto i co-co-co-co-co-co-co. Come stai, ma chi sei, dove vai, ma che fai, che ore sono, non lo sai, ma che vuoi, ma che hai, che ti prende, cerchi guai, attento a quel che fai. Ma siete voi che avete dei problemi, o è questa società, società, tanto politici, preti, camionisti, intellettuali, musicanti e musicisti, faremo tutti la stessa fine, perché prima o poi si bucherà, esploderà, si bucherà, esploderà, si bucherà, esploderà, si bucherà, esploderà, esploderà. Blu Radio, SMS 346 23 20 033. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. Ed eccoci qua ancora in diretta con Rock Wave, l'onda del rock. Stanno cantando in direttissima per noi Sismica. Vi ricordo ancora una volta l'indirizzo per vedere anche la nostra trasmissione, quindi rockwave.altervista.org. Invece il nostro SMS risponde al 346 23 200 33. Ricordo gli ultimi due messaggini che sono arrivati, fantastici come sempre, Sismica e straordinario, come con la vostra stupenda musica mi facciate emozionare. No, questa l'avevo già letta, benissimo. Salutiamo ancora una volta Trilli, era l'ultimo messaggio di prima. Poi ancora ciao Andrea e Davide, continuate così che siete grandi, un bacio da Jessica da Padova. Ciao Jessica. Benissimo, allora due brani ascoltati uno di seguito all'altro con questa identità un po' forte, un po' da preludio di fine del mondo, il 2012 è vicino. Esattamente, sì, ma diciamo che fine è presa in maniera ironica. Certamente, però, c'è un filo conduttore che, unisce con, che vi unisce a Gabe in questo pezzo, secondo sì, me, sì. Leggermente. Sì, sì. Ma c'è un filo ideale, secondo sì. me. C'è una presa, come ha detto giustamente Flavio, molto ironica. Esatto, ironica. Sì, sì, sì. È una canzone così che è nata per scherzo. Mm. E vediamo che comunque è una di quelle che piace di più al pubblico nostro. Questa erotica, sono le due diciamo che hanno maggior tiro. Quindi siamo contenti di questo. Benissimo. Allora, mi sembra che nel vostro prossimo futuro sia in arrivo un album. Esattamente. Quando si potrà sfornare? Ah, guarda. Presentarci dal fornaio. Tempi di produzione, si sa che per fare un album poi ci vuole un po' di tempo, cioè voglio dire, tra la preproduzione, la registrazione. Che poi volevo anche ringraziare il nostro arrangiatore, che è un grandissimo musicista, Alex Zuccaro. Ciao Alex. Che poi ha collaborato con tantissimi artisti, ovviamente adesso suona anche ad esempio con Albano. Uno molto in gamba che fa dei begli arrangiamenti e fa dei bei lavori. L'importanza di un arrangiatore? A me è importantissimo. Beh, per gli arrangiamenti live, lì la band se la può gestire come certo, vuole. Perché ovviamente. Voi. Certo, sì, sì. Però in sala di registrazione. Ma per un disco ci vuole di sicuro. C'è cioè quel tocco particolare. C'è chi le scrive, c'è chi scrive i testi, chi scrive la musica e c'è chi fa gli arrangiamenti perché. È un mestiere, certo. Non è facile. No, è difficile. Bisogna essere bravi, bisogna aver studiato. L'arrangiatore è importantissimo per un disco. È il vestito. Esatto, veste il disco, non è mica semplice. Veste la canzone, non è facile, perché una canzone vestita in maniera diversa può anche comunicare una cosa diversa, no? Sono d'accordo con te. Perché quindi, il musicista può essere bravo a scriverla, sì. Però... praticamente a finirla non è semplice, no? No. Esatto. Non è facile, no? Bisogna essere bravi e cercare di capire quello che la gente vuole sentire. Chiaramente, sì. Perché infine, cos'è? E fine è quello. Sì, va bene, lo fai per te perché è una tua esigenza, però devi farlo anche per la gente, se no questo lavoro non ha senso. Esattamente, se no rimane un lavoro elitario, troppo elitario. Esatto. Elitario non campa, non va avanti, ma poi si ferma immediatamente. Mm. Quindi mi sembra di capire Sismica, giovani però già con le idee chiare, insomma, chiarissime, di dove si vuole arrivare, anche da come vi ho sentito parlare anche in questi frangenti radiofonici. Veramente, veramente bravi, ancora complimenti. Grazie. Allora, noi dobbiamo sempre correre perché il tempo è tiranno, però noi vogliamo ascoltare ancora delle belle canzoni. Da voi, come avendo solo 15 minuti, penso ci sia tempo per due o tre canzoni. Vediamo, le gestiamo così in diretta insieme. Ok, allora io direi di fare due pezzi di fila e poi uno dal disco. E uno dal disco per salutarci. Bene, allora adesso facciamo prima un pezzo nostro, che si intitola Inconsapevole. Sì. Ok, dopo facciamo un brano di Giorgio Gaber. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Sì, lo sono, giusto. E poi facciamo, e poi dal disco Erotica, direi. Sì, benissimo, benissimo. Allora spazio ancora alla musica dal vivo in questa serata. Non ce l'aspettavamo, però i Sismica sono arrivati già con le idee chiare e con soprattutto tanta voglia di suonare dal vivo, perché l'hanno detto anche loro fino a poco fa, insomma, è il live che ci dà proprio la linfa di vita. Allora, Sismica, Andrea e Davide ancora con noi su Rock Wave, qui su Blu Radio Veneto. E rimango così consapevole nella mia realtà e rimango così, senza più regole, senza identità, come un puntino nell'universo, vago nello spazio, corpo senza forma, e continuo a chiedermi cos'è da davvero che non va. La verità è che mi manchi tu. La verità è che non dormo più. Da quando non sei con me, il mondo mi crolla addosso. Mi sento un giocattolo rotto. Non sei più qui e la vita mi sembra un film. Rivivo i momenti di ieri. Ti cercherò ovunque io andrò. Ovunque tu sarai, io ti troverò. Così nel limbo del tuo ego e mi perdo così tra musica e parole, come un puntino nell'universo si è perso anche il tuo amore, e con l'odore di un fiore del mare ti ricorderò. La verità è che ho paura e non so nuotare nel mare. La verità è che non mangio più. Da quando non sei con me, il mondo mi crolla addosso. Mi sento un giocattolo rotto. Non sei più qui e la vita mi sembra un film. Rivivo i momenti di ieri. Ti cercherò ovunque io andrò. Ovunque tu sarai, io ti troverò. Non mi sento italiano di Giorgio Gaber. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo, lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto i calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. E a parte Garibaldi e agli altri orgogliosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle complimenti ci vuole fantasia molta. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha troppe pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato. È anche troppo chiaro agli occhi della gente che è tutto calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani, per lunga tradizione, sono troppo appassionati di ogni discussione. Persino in Parlamento c'è un'aria incandescente. Si scannano su tutto, ma poi non cambia niente. Mai! Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. E a parte il disfattismo, non siamo quel che siamo, abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese forse poco saggio ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna lo sono. Rockwave, l'onda del rock. Ed eccoci qua a fasi conclusive di Rock Wave, del rock che ha colpito anche questa sera in versione live con i Sismica, quindi ancora grazie a Andrea e Davide di essere stati con noi, abbiamo avuto un vero piacere ospitarli, soprattutto perché ci avete imperniato tutta la trasmissione proprio in una versione live che non pensavamo e non speravamo di avere. Assolutamente no, solo tre pezzi da disco, tutti quanti pezzi live, poi l'ultimo strepitoso pezzo di Gaber, difficilissimo da fare, due ragazzi giovani come voi li avete interpretato benissimo con una grinta incredibile, dal vivo qua con due chitarre e con un po' di pedale umano. Cioè ma grazie a voi, grazie a voi di cuore ragazzi, grazie a voi veramente. Benissimo, siete stati bravissimi. È stato un piacere. Allora, dov'è che possiamo venirvi a vedere prossimamente? Allora, comunque, se sì. per vedere tutti i nostri prossimi concerti, se andate su myspace.com/sismicahit, lì trovate la pagina con tutte le serate, e poi comunque guardate giorno per giorno, perché le serate potrebbero, beh, in estate soprattutto, per causa maltempo, essere spostate magari al giorno dopo. Non saltano mai, vengono solo spostate al massimo. Eppure su Facebook Sismica Andrea e Davide. Ma l'appuntamento più vicino? Sabato questo. Perfetto. Allora, in conclusione, sto maneggiando il disco nero col diavoletto rosso che si intitola Erotica. Vogliamo far ascoltare un pezzo salutandoci? Direi proprio Erotica. Intanto volevo ricordare l'ultima cosa, scusami, importante che non ho detto, che il nostro singolo Parlami di te potete acquistarlo su iTunes, mm-hmm, oppure a tutti i nostri concerti. O CD Baby. Anche su CD Baby, che è un altro sito. Vi faccio una proposta, adesso sentiamo Erotica. Esatto. Però di solito noi abbiamo una tradizione, finiamo suonando dal vivo. Ce la fate a fare un altro pezzo dopo Erotica? Certamente. Ok, allora facciamo, sentiamo Erotica e poi salutiamo i nostri ascoltatori. Perfetto. Con un pezzo live. Perfetto. Ok, allora. Benissimo, eccola qua. Erotica, questa emozione. Erotica, questa sensazione. Arrivi tu e porti via la noia e la malinconia. Ipnotica, e sei la solita. Non dir così, io ti conosco sì. sento più. Tu sei erotica, tu sei ipnotica, tu sei magnifica per me. Tu sei un pericolo, tu sei un desiderio proibito, tu sei la mia dose di sensualità magnifica. Delirazione, la tua provocazione. Cammini per la strada decisa a cercare la tua prossima preda. Ma io no, io non ci casco, no. L'onda del rock. Allora, stiamo mangiando dei secondi alla trasmissione che viene dopo. Sì, che ingloriosamente è la mia. Esattamente. È sempre la mia. Beh, non importa, potete mangiare tutti i secondi che volete. Vabbè, dopo non solo acustico, ma in onda più tardi, non c'è il problema. L'importante è che manteniamo comunque il target, che tra qualche minuto... Sì, no, il target lo manteniamo. Rock, assolutamente rock. Questa è una trasmissione live. E il più bello di così... si muore musicalmente parlando, secondo me. Sì, certo, ancora con il Sismica, quindi in chiusura di trasmissione rinnoviamo appunto il nostro grazie per essere stati con noi. Molto presto spero di potervi ospitare ancora, magari con quel disco che vorrete far uscire, non so quando, ma insomma so che ci sarà. Molto volentieri, noi veniamo molto volentieri e vi ringraziamo di cuore per averci ospitato questa sera. Ringraziamo voi due, ringraziamo tutto lo staff. Lo staff, ringraziamo, ringraziamo tutti i ragazzi che ci seguono, tutti gli ascoltatori, salutiamo gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Esatto. Grazie, verranno sicuramente ai concerti dopo che hanno visto e li aspettiamo volentieri. Aspettiamo. E sentito questa grinta che avete emanato in queste due ore che siete stati con noi. Allora ragazzi, come diceva prima Maurizio, allora salutateci, ciao dalla parte. Allora ciao ragazzi, noi andiamo a fare l'ultimo, sì, l'ultimo live. Certamente, io ringrazio Flavio Bilato che è stato il regista, è stato il coordinatore, Agostino e Roberto Baldi che hanno coordinato le telecamere. Volevo solo ricordare che venerdì avremo una trasmissione straordinaria, avremo Arturo Stalteri, leader di grandissimi Pierrot Lunè, un gruppo progressive degli anni 70 che verrà a suonare qui da noi con la tastiera assieme a Vannuccio, il suo produttore. Benissimo, quindi se è prog ascolterò anche io da casa. Ma visto che sono, sicuramente, innanzitutto sono... prima del prog adesso abbiamo i Sismica che concludono in bellezza. Allora ancora grazie ad Andrea, grazie a Davide, grazie quindi ai Sismica, salutiamo a distanza anche tutti i membri del gruppo che durante le serate live accompagnano Andrea e Davide, e quindi a voi l'opportunità di chiudere la trasmissione appunto con un ultimo vostro pezzo a scelta. Quindi ancora ciao e grazie di essere stati con noi. Grazie Maurizio. A voi. Allora chiudiamo con la nostra scusa. Scusa, è colpa mia. Scusa, è stata pura follia. scusa se non ti ho perdonato. Scusa, mi ero sbagliato. Lascia che sia un fiore, lascia che sia l'amore, lascia che sia il sole a scaldarti l'anima. Lascia che sia, se lo vuoi, una bugia a portarti da me. Grazie per le mille emozioni. Grazie per le tue attenzioni. Grazie per il tuo dolce viso. E grazie per avermi sorriso. Lascia che sia un fiore, lascia che sia l'amore, lascia che sia il sole. Lascia che sia, se lo vuoi, una bugia a portarti da me. Na na na na na na na na na. Lascia che sia una bugia a portarti da me. È mezzanotte e 5 minuti.